I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Ci sono quasi 1200 chilometri tra Milano e Crotone, idealmente la stessa distanza che separa il capoluogo lombardo dalla città calabra affacciata sul Mar Ionio quando parliamo di ricchezza della popolazione, o più precisamente di redditi dichiarati al fisco. Milano, la provincia di Milano, che svetta soprattutto con un reddito medio per contribuente di 28.300 euro e poi giù per 1.200 chilometri fino ai 13.700 euro dichiarati in media nel 2016 dai contribuenti della provincia di Crotone, con il reddito medio più basso. Fa davvero molto riflettere questa fotografia dei redditi medi dichiarati al fisco tra il 2016, per l'anno 2015, e il 2007, idealmente l'anno che ha preceduto la doppia crisi dell'economia del 2008 e del 2011, fotografia che viene pubblicata sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Fa riflettere per tanti motivi, primo fra tutti il fatto che in termini reali, quindi senza gli effetti dell'aumento del costo della vita, il reddito aggregato tra il 2016 e il 2007 è diminuito in tutte le province italiane, con la sola eccezione di Bolzano. Se guardiamo invece al reddito medio per contribuente, vediamo che nel periodo della crisi si registra un segno negativo in 2 province su 3, con una particolarità: la perdita più rilevante di reddito riguarda certamente il sud, il centro-sud delle isole, ma la crisi non ha guardato in faccia nessuno e da Como a Varese sono molte le province del nord che evidenziano redditi in forte flessione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. È in corso un terremoto nei paesi arabi. Gli attentati a firma dell'ISIS in Gran Bretagna provocano ripercussioni politiche in tutta la regione. Egitto, Arabia Saudita, Emirati e Bahrain hanno annunciato lo stop dei rapporti diplomatici con il Qatar, in seguito a crescenti tensioni tra i paesi del Golfo proprio riguardo al presunto appoggio qatarioto ai gruppi islamisti. Le 4 nazioni arabe, cui si è aggiunto anche lo Yemen, hanno stabilito il ritiro del loro personale diplomatico dal Qatar, che ricordiamolo è una nazione ricca di gas e ospiterà i mondiali di calcio del 2022, nonché hanno annunciato di voler tagliare il traffico aereo e marittimo verso il paese peninsulare, tentando così di farne collassare l'intera economia. Teniamo conto che già il bando è applicato da Etihad ed Emirates. Inoltre l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Bahrain hanno decretato l'espulsione di tutti i cittadini qatarini, dando loro 14 giorni per partire, ordinando anche ai cittadini che si trovano in Qatar di passaggio come residenti di lasciare immediatamente il paese. È una decisione che colpisce anche perché arriva pochi giorni dopo il viaggio del presidente Trump in Arabia Saudita. Ora l'accusa al Qatar è quella di intrattenere i rapporti fin troppo buoni con l'Iran, considerata da sempre l'avversario principale dell'Arabia Saudita per il controllo del greggio. La nuova linea anti-Teheran degli Stati Uniti ha una ricaduta quindi negli equilibri dei paesi arabi, ma per gli USA potrebbe verificarsi una situazione di instabilità inedita e non voluta, visto che il quartier generale americano in Medio Oriente, il CENTCOM, ha sede proprio in Qatar. È l'ennesima riproposizione in realtà del regolamento di conti tra il mondo sunnita degli Emirati e gli sciiti di Teheran, che non potrà non avere conseguenze anche da noi. Un esempio? Forse in pochi ricordano che il quartier generale dei grattacieli di Milano, che è il nuovo vanto della skyline cittadina, è proprio del Qatar. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.